Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Attesa di un amore gay improbabile. Ieri, 16 dicembre 2009, alle ore 21:45, ho ricevuto la mail che riporto qui di seguito. Ho chiesto all'autore il permesso di pubblicarla e lo faccio con estremo piacere. Riporto in successione anche una seconda mail che ho ricevuto il giorno successivo. Ma veniamo alla prima mail. Ciao Gay Project. Il tuo blog lo leggo sarà ormai da più di un anno e mi piace il modo in cui tratta noi gay e non credo che in internet si possa trovare qualcosa di simile, per cui complimenti. Ho pensato di scriverti la mia storia, sapendo che è qualcosa di diverso e di atipico e che mi ha fin dall'inizio solo tirato addosso tante critiche, ma che mi ha insegnato che a volte si devono ascoltare i propri pensieri, i propri sentimenti per arrivare al punto giusto senza dare seguito a suggerimenti su scorciatoie o su strade convenzionali, perché ognuno ha la sua strada, ma insomma adesso ti spiego. Mi chiamo Marco, ho 28 anni e sono nato e cresciuto in un noioso paesetto molto bigotto, o come si dice qui, un paese de basapile, in cui immagina come vengono giudicati e offesi gay. Io di essere gay l'ho capito intorno ai 18 anni, ma solo perché prima avevo rimosso in toto la sessualità e per difesa. Nessun innamoramento, niente attrazione sessuale, neppure interesse, nada de nada. Non che il resto della mia vita fosse chissà che, anzi, da bambino ero timido e introverso e non mi sentivo mai a mio agio con gli altri. Crescendo sono migliorato, ma solo perché ho imparato a crearmi una maschera, dietro cui nascondevo tutte le mie paure, le mie fobie, le mie ansie, per farmi credere quello che non ero e per farmi accettare. La mia combriccola di amici di paese ce l'avevo. Si usciva insieme, si facevano le tipiche cose che si fanno tra adolescenti. Diciamo che io nel gruppo ero inquadrato come quello un po' timido, ma nessuno sospettava l'inferno che mi nascondevo dentro. Perché io, in realtà, mi sentivo sempre diverso dagli altri, impacciato, fuori luogo, sotto giudizio negativo da parte di tutti. C'erano tutta una serie di cose che mi paralizzavano, perché al solo pensiero di doverle fare mi davano un'ansia assurda, perché pensavo che avrei sbagliato qualcosa, che sarei incorso in qualche brutta figura, che la gente mi avrebbe criticato, che non sarei riuscito a farla. Ma cose banalissime, dico, anche solo se mia madre mi mandava a comprare qualcosa o a pagare le bollette, o se dovevo camminare da solo per strada, o fare ricreazione a scuola, o prendere il pullman, o chiedere informazioni. Tutto mi stressava. Ho iniziato l'università solo perché i miei lo davano per scontato, che l'avrei fatta, e io non riuscivo mai a sottrarmi alle attese degli altri. Ma per me era solo una enorme fonte di angoscia, a iniziare dal fatto di fare il pendolare e di andare a prendere posto in mezzo a tanti ragazzi che non conoscevo e che mi sembravano tutti migliori di me. Studiavo, ma poi non riuscivo a fare gli esami e li rimandavo di continuo. Rimandavo ogni cosa. In realtà sembra sia stato il mio sport preferito per anni. Dopo 6 anni di università avevo fatto solo 8 esami e non ti dico come mi sentivo, un fallito. Al mio essere gay ho dato inizialmente la colpa di ogni mio malessere e con questo ho tentato di eliminare alla radice la cosa da me. Chiaramente è stato inutile tutto quello che ho fatto e ho solo sofferto tanto di più. A 22 anni mi sono rassegnato e ho iniziato timidamente a girare per blog gay prima e poi anche per siti di incontri. Mi sentivo molto solo e molto bisognoso di affetto e questo mi ha spinto a conoscere un po' di ragazzi. Prima parlando su Messenger e poi ho cominciato anche a incontrarli di persona. Era sempre una più o meno grande delusione. Io non piacevo quasi mai, nel senso che oltre alla richiesta del sesso c'era il vuoto o poco altro, ma se anche piacevo, vero interesse per me, praticamente non lo provava mai nessuno. Era sempre e soltanto un'esperienza di solitudine. Certo, con qualcuno sono rimasto amico, ma niente di che. A 25 anni mi imbatto in Matteo, di un anno più giovane di me. È stato un contatto preso come tutti gli altri su un sito d'incontri. Dopo la prima chattata, mi ricordo, mi era rimasta una buona impressione e in pochissimo tempo ho cominciato ad aprirmi con lui in un modo totale. Fin qui sembra una storia come possono essercene tante, ma infatti è proprio da qui che le cose diventano diverse ed è anche difficile spiegarle perché sono complicate e non so bene come condensarle e renderle chiare. Inizio con l'anticipare che con Matteo ci siamo chattati, diciamo così, per 2 anni e 13 giorni. Abbiamo parlato seriamente, scherzato, litigato, ci siamo raccontati le nostre fantasie sessuali, ma io di lui avevo solo pochissime foto, mandatemi con molta riluttanza, foto in cui non si capiva un granché e non erano neppure foto molto recenti, anche se l'idea era quella di un ragazzo non brutto. Niente cam, perché non l'aveva prima e poi perché diceva che non voleva vedermi né farsi vedere in cam. Quando gli ho chiesto il cellulare, ha fatto tante storie e ha detto che non se la sentiva. Ho chiesto se potevamo incontrarci di persona, ha detto che ora per lui non era giunto ancora il tempo. Lui questi tempi, i tempi lunghi effettivamente, li aveva per tutto. Matteo era anche molto chiuso e di lui non diceva molto. Non nego che dopo qualche mese ho cominciato a pensare a tante cose e a farmi delle pare mentali perché la situazione era perlomeno sospetta. Tra l'altro non vivevamo neppure nella stessa regione, io in Veneto e lui nelle Marche. C'era molto per cui lasciare perdere a vederla così, ma ovviamente c'era un ma bello grosso. Il fatto è che io a parlare con lui stavo benissimo. Matteo è stato la prima e fino ad ora l'unica persona con cui io sia stato sincero sul genere di persona che ero in realtà, pieno di fobie, angosciato, egoista, un po' vigliacco, incapace di vivere come gli altri. Con lui non sentivo mai il suo giudizio sulle cose che gli rivelavo di me, solo il suo interesse e la sua voglia di capirmi e di conoscermi meglio, di aiutarmi. E basta. Per me era una sorta di miracolo. Poi io Matteo lo trovavo semplicemente adorabile. Ogni cosa che diceva e come la diceva, i suoi pensieri. E non so perché, ma avevo un'istintiva fiducia totale in lui. Anche Matteo, con i mesi, si era aperto gradualmente, anche se con molta più fatica, e mi aveva raccontato molti suoi problemi, soprattutto che, non accettava ancora molto almeno di essere gay. E poi aveva iniziato a dirmi della sua situazione di famiglia, che era veramente drammatica, con un padre che lo tormentava in ogni modo, una vera violenza psicologica continua e a volte anche violenza fisica. Ho cominciato a volergli bene, ma tanto. È difficile spiegare cosa Matteo fosse per me. Diciamo che è diventato un bene essenziale della mia vita, senza quasi rendermene conto, che poi mi ha spinto a cambiare piano piano, a migliorarmi, a sforzarmi ad affrontare le mie paure. Sapere e sentire ogni giorno che c'era qualcuno a cui io interessavo sinceramente, a cui potevo parlare di tutto, sentire i suoi sforzi per consigliarmi e per capirmi, beh, per me era bellissimo, era tutto. Per Matteo io ero importante. E cosa ancora più bella è che per lui era importante che io stessi bene, perché quella era la sua gioia. E così io mi dicevo, provo questo esame perché se anche va male, questa sera ne posso parlare con Matteo e so benissimo che per lui va bene anche solo il fatto che io ci ho almeno provato. E questo mi dava una grande forza perché non mi faceva andare più davanti a tanta paura di dover fallire. Il giudizio negativo degli altri pian piano ha cominciato a importarmi sempre di meno, perché a me importava solo il suo giudizio. Ho acquisito sicurezza, sicurezza in me, e cambiando io come persona, mi sono sorpreso a morte nel vedere come io in realtà potessi addirittura piacere agli altri ragazzi, perché in questa storia un po' irreale e difficile ci sono sempre stati ovviamente anche gli altri. Né io né Matteo abbiamo mai vissuto in un mondo virtuale e questo credo sia il punto chiave di tutto. Ognuno di noi viveva la sua vita, il suo mondo reale, quotidiano, ma ne rendeva l'altro partecipe in ogni cosa e in ogni sfumatura, perché io accettavo che Matteo non si sentisse pronto ad andare oltre il muro della chat con me, ma io avevo bisogno di persone in carne ed ossa nella mia vita e Matteo lo capiva senza problemi. E anzi, parlavamo anche dei miei incontri senza remore e lui mi consigliava anche lì sempre per il meglio per me. I problemi in realtà sono arrivati poi e sono arrivati anche grossi, ma a crearli sono stati solo gli altri. Infatti, ogni volta che parlavo con qualcuno della mia situazione con Matteo, nessuno ha mai capito niente. L'unica cosa era dirmi che era una cosa assurda, da immaturi, non reale, da sfigati, e altri giudizi negativi, soprattutto di compassione. Mi dicevano che non ci saremmo mai incontrati, che io mi illudevo. C'era chi mi diceva che Matteo mi prendeva in giro, che non era quello che diceva di essere, che magari stava su una sedia a rotelle, aveva degli handicap fisici e che per quello non si faceva vedere, e tante altre storie del genere. E io, dopo un anno e un mese di sola chat, alla fine ho cominciato ad assecondarli e i miei dubbi si sono ampliati sempre di più. Ho cominciato a fare pressioni su Matteo, a spingerlo a fare dei passi avanti, a dirgli che altrimenti avrei chiuso con lui. Matteo stava malissimo, mi diceva che lui si sforzava e gli dispiaceva troppo se io non li vedevo questi suoi sforzi, i suoi passi in avanti, ma che mi aveva sempre detto che aveva i suoi tempi. A forza di sentirmi dire da tutte le persone interpellate che se mi voleva veramente bene, per non perdermi, non poteva che esaudire le mie richieste, alla fine me ne sono quasi convinto. E allora gli ho dato l'ultimatum: telefonami, Matteo. Non l'ha fatto e io ho chiuso con lui. Ma poi sono stato malissimo. Mi sentivo solo, in un modo insopportabile, vuoto come il classico vuoto a rendere. E poi a Matteo io volevo bene, troppo bene, per non sapere più niente di lui. Mi chiedo, ma come si può condividere la parte più intima e anche la parte più dolorosa della propria vita con qualcuno e poi dimenticarsene da un momento all'altro? Fregarsene di come le cose potessero andargli. Per me era un'angoscia insopportabile non sapere che cosa gli succedeva, anche solo nella più banale azione. E tutti a dire, ma lascia passare i mesi, vedrai che te ne dimenticherai completamente. Ma io dopo un mese stavo ancora peggio. Tutti a dire che importano soltanto le persone reali, come se Matteo non fosse una persona reale in carne e ossa, con i suoi dolori, i suoi sorrisi, le sue lacrime, solo perché non li avevo visti e non li avevo toccati. E poi in tutti quegli anni in cui avevo conosciuto ragazzi, in cui anche mi ero fatto degli amici, qualcuno che mi volesse tanto bene, non solo a parole o a promesse, qualcuno sempre presente e soprattutto disinteressato come Matteo, non l'avevo incontrato mai. Tutti quegli incontri in cui si può avere tutto subito e nell'immediato, ecco, quelli sì li avevo avuti. Parole, un sorriso, un abbraccio e persino di più, ma che poi in tutti i miei amici, in tutti i loro conoscenti, non continuavano per più che una manciata di mesi. Avevano queste cose più senso di qualche cosa che invece si creava con estrema lentezza in un modo non standard e non simile a quello degli altri? Io penso di no. Mi sono detto, ma perché devo rinunciare a una persona a cui voglio bene, che mi fa stare bene, che mi spinge ogni giorno ad essere migliore, solo perché la gente trova assurdo e persino peggio che assurdo passare un anno in chat con un ragazzo senza mai vederlo o sentirlo? E che cavolo, ci sono milioni di persone che credono, hanno fiducia cieca in cose che non esistono neppure nel mondo reale, vedi Dio, che lo pregano e non hanno risposte. E io che con Matteo ci parlo e mi consiglio solo perché non lo vedo, non lo sento, non lo incontro, perché non devo avere fiducia in lui. Gli ho scritto una mail e gli ho spiegato tutto quello che era successo in me e quello che avevo capito. E gli ho detto, se vuoi io sono pronto. E puoi prenderti tutti i tempi di cui hai bisogno, quello di cui io ho bisogno è solo sapere come stai te e come fare ridarti tutto quello che tu mi hai sempre dato. Matteo mi ha risposto il giorno dopo e mi ha scritto che per lui io ero troppo importante e che proprio per questo aveva bisogno di creare quel distacco virtuale senza suoni e senza immagini tra noi, perché gli dava insieme sia la sensazione della mia presenza, la sicurezza che io avessi davvero fiducia totale e disinteressata per lui, ma anche tutti gli spazi di vuoto che lo obbligavano a darsi degli obiettivi da superare per me, e la sensazione della solitudine materiale, e tutto questo per riuscire ad avere la forza di risolvere prima da solo, con se stesso, i suoi problemi più grandi, altrimenti tra noi le cose sarebbero finite distrutte, perché un disperato che si aggrappa a qualcuno, fosse quel qualcuno pure la persona più forte, e comunque io non lo ero, lo poteva soltanto portare a fondo. Io Matteo l'ho capito allora, l'ho capito davvero con quelle parole e l'ho stimato e amato molto di più per quella sua scelta e sinceramente da lì non me ne è più fregato niente di tutti gli altri. L'unica cosa che aveva un valore era il rapporto che si era creato tra noi. E quello era una cosa che riguardava solo noi. I sentimenti sono sentimenti al di là della fisicità di una persona, e una chat può essere un percorso per scoprirli e approfondirli, e non un semplice accontentarsi. Io e Matteo abbiamo ripreso a chattare, ma questo è stato solo l'avvio. Inizio col dire che in questi 2 anni di chat con Matteo ho macinato esami su esami e mi sono laureato. Matteo i suoi tempi li aveva, è vero, erano tempi lunghi, ma li ha superati. 4 mesi dopo che abbiamo ripreso a parlare, mi ha dato il suo cellulare. Ancora adesso mi viene da sorridere di tutte le volte che mi ero immaginato che la sua voce avesse qualche cosa che non andava e che per quello non volesse parlarmi. È l'ansia quando mi ha risposto, quando invece ha una voce bellissima. Dopo 5 mesi e mezzo ci siamo incontrati di persona, a metà strada tra me e lui. Lo adoravo prima e ancora di più dopo. Matteo è infatti troppo carino, ha un bellissimo sorriso, 2 occhi che sembrano il mare e un fisico sportivo, altro che handicap o sedia a rotelle. Ho trovato lavoro e sono andato a vivere per conto mio nella città dove mi sono laureato. Da quasi 2 mesi Matteo ha lasciato la merda della sua famiglia, scusami questa parola, ma è proprio quella che ci vuole, e mi ha raggiunto. Ora sta cercando un lavoro part-time perché l'anno prossimo vuole iscriversi all'università. Suo padre lo ha obbligato a lavorare dopo la maturità, ma Matteo ha sempre sognato di potersi laureare in architettura e io so che ce la farà. E non solo perché ho visto tutte le raccolte delle sue cartelle e sono bellissime, ma perché io farò tutto quello che gli serve per aiutarlo a farcela. Quindi ora posso affermare che questi 2 anni e 13 giorni di chat per entrambi sono stati importantissimi perché ci hanno fatto diventare due ragazzi più forti e più responsabili, consapevoli che la forza non viene dall'aggrapparsi a qualcuno né dalla somma di due debolezze, ma dalla voglia di migliorarsi per strappare un sorriso a chi ti vuole bene. E ora giustamente ti chiederai, ma ora voi due che cosa siete? Beh, di sicuro siamo due persone che si vogliono un bene dell'anima. Di più, siamo due persone che si amano, che hanno imparato a rispettarsi, ad avere tra loro una fiducia totale, a non nutrire gelosie, che vogliono solo aiutarsi, sostenere le scelte l'uno dell'altro come hanno sempre fatto in quei lunghissimi mesi di sola chat. Ma ora lo facciamo anche abbracciandoci stretti e guardandoci ogni giorno negli occhi. Spero questa mail non sia troppo lunga. Un bacio, Marco e Matteo. Ah, post scriptum, ho iniziato da poco anche a spulciare il forum. Quello che segue è il testo della seconda mail. Ciao Project. Ti diamo senz'altro l'autorizzazione a pubblicare, infatti era il nostro intento. Per i nomi non credo sia un problema mantenerli come sono, tanto sono nomi piuttosto comuni, niente di originale. Comunque, vedi tu come pensi sia meglio fare, ci affidiamo a te e ci fa piacere che la reputi una bella testimonianza, in fondo sei il primo. A me è stato detto sempre peste e corna della nostra situazione. Ci piacerebbe anche che ci dicessi tu come vedi una situazione del genere, visto che di ragazzi gay ne senti tantissimi. A volte mi chiedo se davvero è così assurdo legarsi tanto a una persona solo parlando in chat e per tanto tempo, fino ad arrivare a provare sentimenti tanto profondi anche senza mai vedersi oppure senza mai parlarsi al cellulare. Dico, possibile che siamo gli unici? Certo, se fosse così saremmo sicuramente originali, a parte gli scherzi. Credo che se una persona sente nel cuore di potersi fidare, dare tempo e fiducia a qualcuno mi sembra il minimo. Avere tempi e modalità diversi è solo una caratteristica di una persona e si dovrebbe avere più pazienza e più comprensione. Tra i gay sembra che valga solo il tutto e subito in ogni campo di relazione o di amicizia o anche di rapporto o di sesso. Ma poi alla fine, quanto girano le cose che sono nate in questo modo? A me non sembra molto. Io non mi sono uniformato al gruppo e alle idee comuni, ma ho ascoltato solo il mio cuore. E così mi sono fidato, ho aspettato e ho trovato un tesoro unico e bellissimo. Il messaggio che spero passi è proprio questo. Di sicuro la costruiremo noi due una bella relazione. Abbiamo reso il tempo dal peggiore alleato al migliore consigliere. Baci, Marco. Sai, qui nevica. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica del tutto fuori dal coro.